È lui. Lui, lui. Questa è la lezione del 24 marzo. Mercoledì prossimo non si parla più, perché siamo già in Pasqua? Siamo già nel vacanza? No. Si fa ancora? È quella dopo che salta, ok. Come ne ha? Ah, no, se per Pasqua non salto nu, bellissimo ragazzi, bellissimo, bellissimo. No, sono contento perché è un programma nuovo, con più grandi, quindi... Questo è complicato, ma adesso vediamo. Viscoccia, se lo posso mettere lì, che fa da ospite, è un ospite. Vabbè, quelli che stanno dietro l'orizzonte degli eventi, mi provo a dire il collo per guardarli, se no guarderò quelli del cono visivo. Allora faccio, ho già messo lì, ho già visto che non mi piace, faccio un riepilogo proprio a volo d'uccello. Abbiamo più o meno affrontato nelle prime due lezioni il problema continuità, discontinuità nei rapporti tra gli esseri umani e le altre specie umane. Io ho difeso la tesi della continuità, però vi ho raccontato diverse teorie discontinuiste, la principale delle quali è una variante dell'antropologia filosofica. Poi abbiamo cominciato, avevo già introdotto qualcosa nelle lezioni precedenti, ma nella lezione scorsa ho cominciato ad introdurre le opposizioni tra universalismo e relativismo, dogmatismo e scetticismo e tutte le cose di questo tipo. Allora, vi segnalo che il problema fondamentale, il testo per le prime due lezioni praticamente non c'è, avete un articolo, anche tutti questi nuovi non hanno, me lo ricorderete alla fine della lezione, ma non credo di averlo dietro questa volta, se no vi faccio fare una copia. Ho distribuito una prefazione a un libro che sta uscendo adesso, ma che non vi obbligo a comprare, su Darwin, dove c'è una prefazione mia, in cui affronta esattamente i temi delle prime due lezioni, quindi sulla questione monismo, dualismo e continuismo, discontinuismo nei rapporti tra esseri umani e altri, cioè l'uomo, Homo sapiens dentro il regno zoologico. Allora, per le altre lezioni, per la scorsa lezione, per questa e per la prossima, forse ancora una, il testo fondamentale è quello di Ibáñez, e che io non seguirò proprio tutto, perché poi specialmente la prima parte è molto abbastanza semplice, no? Quindi un testo apposta, bel testo che concisamente spiega le cose, però ovviamente però riferimento e più o meno le mie posizioni coincidono più o meno con quelle di Ibáñez, a meno di qualche sfumatura. Allora, non affronterò oggi uno dei problemi fondamentali che stanno dietro a quello che abbiamo cominciato a discutere le volte scorse, cioè il problema dello statuto ontologico ed epistemologico della verità. È chiaro che è il concetto di verità che sta dietro a tutte queste cose. Che cos'è la verità? Prima c'era scritto la verità esiste, se esiste è conoscibile. In realtà ci sarebbe una terza domanda che se è conoscibile, entro quali limiti è conoscibile. Per il momento ci limitiamo a avere bene chiaro il testo, spero che se la piace, se non ce l'avete ve lo dico così, appunto, a avere bene chiaro il testo, che l'opposizione, il dibattito, la diatriba, la lite, lo scontro, la battaglia, il cannoneggiamento il conflitto tra il punto di vista assolutista e il punto di vista relativista è tesi assolutista: esiste qualcosa che è incondizionato, che non ha condizioni, che è valido per tutti i tempi e per tutti gli spazi, per tutti gli esseri umani. Questa è la tesi fondamentale dell'esatturista, è ciò che egli chiama verità. Egli o ella, lui o lei, loro, chiamano verità. Verità assoluta, incondizionata. E questo è il fondamento sulla quale si basa tutta la successiva produzione cognitiva, intellettuale, teorica e il comportamento pratico degli esseri. Questa è la tesi assolutista. La tesi relativista è: non esiste nulla che non sia condizionato. Ogni cosa è condizionata, dipende da qualche altra, è relativa a un certo contesto. Da questo possiamo rapidamente concludere, ma ripeto che non voglio soffermarmi oggi, perché voglio contornare la cosa e affrontare la cosa da un altro punto di vista. Da questo comunque segue la considerazione che è disonesto, e mi spiace per gli assolutisti, ma è un'operazione disonesta che fanno per le famiglie, attribuire al relativista una affermazione tipo la verità non esiste. Il relativista, lo scettico, non ha mai detto che la verità non esiste. Né ha detto, a rigor di termini, che è inconoscibile. Comunque, se ha detto qualcosa è più simile al fatto che sia inconoscibile. Il relativista afferma che anche la verità, che non esiste una verità incondizionata, assoluta, valida per tutti i tempi e tutti gli spazi, sottratta a ogni condizionamento. Il relativista afferma che come minimo, quantomeno, questa pretesa verità è condizionata alla struttura biologica dell'essere umano, deriva dalla nostra biologia, no? Dette le cose in questi termini, è ovvio che rimangono aperti un casino di problemi, e fra questi, non mi stancherò mai di dirvelo, il problema fondamentale dell'antropologia, che, e anche della sociologia volendo, insomma, e io potrei dire addirittura della filosofia, insomma, problema fondamentale che mi è scappato di testa il contenuto della relativa, quindi togliete quel cazzo di che avete scritto, perché non seguirà nulla. Adesso ho perso pure il filo di cambiare, vedi un po' cosa mi succede, è andare troppo ad albero, il guaio delle strutture ad albero, delle dislocazioni continue. Avete mai letto il racconto di Borges, il giardino dei sentieri che si diforcano? Chi è che l'ha letto? Alzi la mano, una persona qui. Cioè, quelli che non l'hanno letto provvedano a leggerlo, perché perché se aveste letto quello vi sarete risparmiati la visione del film Ritorno al futuro. Va bene, perché si parla di bifurcazioni. El jardín de los senderos qui se bifurcan, dice Borges. Non mi ricordo, già adesso mi tocca far andare. Qual era la cosa a cui mi sono fermato e che dovevo... Sono universalista, se permetti di dire. Sì, ok, no, c'era un passo in là. Dalla biologia. Ah no, il problema della biologia. Il problema fondamentale dell'antropologia, della sociologia e della filosofia, perlomeno da come lo vedo io, è questo. Ed è un problema, ecco, mi interessa. Ed è un problema che apparentemente mette in difficoltà il relativista, perché il relativista però è un... Il relativista è un ragazzo coraggioso, si va a cercare i guai pure, e non ha paura di cercare i guai. Allora, adesso vi dico questa cosa, che è un guaio. Il problema fondamentale dell'antropologia latina qual è? Questo: come è possibile che dalla unicità della biologia umana, che è unica, il DNA umano è unico, non siamo specie diverse come crede Bossi, lo crede, ma dalla galera ora. Che siamo. Siamo tutti, la nostra biologia è unica, non ci sono cristi, non ci sono dubbi. E il nostro DNA è unico ed è un DNA che condividiamo al 97% con gli scimpanzé, 97%, non 38, 34, 75, 80, 97% con gli scimpanzé, ok? Non c'è da essere orgogliosi. No, gli scimpanzé, non lo sapete perché, quindi che cazzata. Come è possibile che da un ceppo biologico unico, da un DNA unico, si siano sviluppate delle culture così diverse, contrastanti, differenziate, incommensurabili, a volte incomunicabili, inconfrontabili da un certo punto di vista? D'altra parte, questo dilemma è quello che spiega, insieme con tante altre cose, adesso poi un'altra ve la dirò oggi, ed è per questo che... Questo spiega la presenza delle posizioni assolutiste nella storia del futuro, perché ce n'è sempre state, sempre. Cazzo, ma se hanno così tanto successo, uno pensa, saranno vere, saranno giustificate, allora io vere direi di no, ma giustificate sì, certo che sono giustificate, perché è un problema reale spiegarsi perché da una unicità biologica di fondo dipendono sistemi di comportamento, sistemi di valori, elaborazioni di ideali, narrazioni, personaggi, modi di vita, sistemi di parentela così diversi. Questo spiega perché il signor Claude Lévi-Strauss negli anni 40, dopo essere stato in Brasile tra i Bororo, in Ambiquara e alcune altre, e aver studiato altre cose, decise di scrivere un libro chiamato Le strutture elementari della parentela, per dimostrare che dietro a questa apparente disparità, apparente diversità di sistemi matrimoniali, che sono i sistemi che nelle società cosiddette primitive svolgono le funzioni di quello che da noi svolgono altre strutture, noi possiamo sposarci come cazzo ci pare perché abbiamo una serie di collanti sociali ben diversi. La tribù di 150 persone che ha bisogno di un collante sociale tanto quanto noi, anche se siamo 50 milioni di italiani e quindi sfigati, perché chi parla una lingua parlata da soli 50 milioni di persone nel mondo è sfigato, come ovvio. Questa è la nostra lingua e noi parliamo questa, certo che cinesi e statunitensi ci fanno più più la razza, ci pisciano in testa perché le loro lingue sono parlate da centinaia di milioni di persone, noi siamo contenti per loro, ma a noi ci è capitato questa lingua qua, che ci posso fare, insomma io per quanto mi sforzo, questa mattina ho parlato inglese tutta la mattina, ma non è ovvio che non parlo inglese, con la stessa fluidità e anche con lo stesso disordine con cui lo parlo, non disordine forse sì, con cui parlo l'italiano. Allora, è chiaro, mi sono, come dire, spiegato, è chiaro, allora, che cosa fa Lévi-Strauss? Non ho finito la cosa. Lévi-Strauss dice, dietro tutta questa c'è una struttura, uguale, cazzo, e lui dice, ho trovato, va, che bello. Molto, molto bene, è fasulla questa roba che ha trovato, diciamo, non è che ha trovato Lévi-Strauss. Non voglio dire che sia vera, però questo spiega perché, cioè, è una persona seria, non è uno cretino, non era, no? È una persona, c'è un gigante, come non è stupido Chomsky, che ha anche lì, cioè perché Chomsky si mette a cercare, adesso pare che non la cerchi più perché per fortuna c'ha da fare altro nei movimenti dei diritti civili e tutto, però cioè, a lungo ha cercato la grammatica universale, cioè l'insieme, i linguaggi, certo, siccome il linguaggio deriva da una questione biologica uguale in tutti gli esseri umani, quindi chiaramente in qualche maniera è nata, dice lui, ci deve essere una struttura, ci devono essere delle leggi di funzionamento. È comprensibile questa tentazione, no? Dello stesso, non è così strana. Perché è vero, perché c'è questa contraddizione tra l'unitarietà biologica di fondo della specie e la diversità delle culture, detto. Tutta questa roba che ho detto, mi sono fatto l'ora per dirla, volendo si può sintetizzare con una sola frase. l'ho fatta più colorita, così vi è entrato in testa, spero, io non lo so, forse sbaglio, ma per esempio parlando coloritamente alla gente si interessa di più a quello che dico io, forse è un errore e dovrei imparare a essere meno barocco, più sintetico, e forse la gente capirà di più, non lo so. Ho appena fatto una verifica in Abato, quasi metà delle persone dimostravano che non avevano bisogno di un cazzo di quello che ho detto per 4 mesi. Comunque. Allora, l'altra grande ragione che spiega la forza e la continua presenza in tutte le culture dell'ipotesi universalista lo chiamo solo universalista e non assolutista e dogmatica, perché sennò sembra che infierisco sull'avversario, come dire Berlusconi piruista, è vero che è vero, però non ricordiamoglielo sempre, perché sennò sembra che ce l'abbiamo con. Allora, li chiameremo universalisti e non assolutisti e dogmatici, come in effetti sono, ma li chiameremo solo. Questo spiega. Allora, è chiaro che la tutta questa cosa si basa, un tempo si pensava, si basa sulle strutture culturali, nel Novecento, insomma, nelle scienze umane, in molte insomma, diciamo, discipline, cominciò a esercitarsi una sorta di egemonia della linguistica. La stessa antropologia strutturale, lo stesso Levi-Strauss, elaborò le sue, diciamo, teorie, quindi la sua, lui è esattamente sulla base della questione del linguaggio. Lui dice, come c'è, nella linguistica c'era stata qualche decennio prima una rivoluzione strutturale, una rivoluzione culturale all'interno degli studi di linguistica, iniziata da questo signore di Nevrino, di cui vi ho già parlato varie volte, che si chiama Fernando Saussure. E quando nel 1920 uscì il suo libro, che lui non ha mai scritto, che sono gli appunti degli ultimi corsi del suo corso di linguistica a, diciamo, Ginevra, quindi il corso della linguistica generale, corso di linguistica generale, che fondò questa, e in cui c'era questa idea di cercare, tutta la semiotica, tutta la successiva avventura della, diciamo, semiotica e della semiologia, che ha dato così tanta fortuna anche ad un personaggio come Umberto Eco, universalista pure lui, come ho, insomma, deriva tutta da, diciamo, questo film. Levi-Strauss che cosa cerca? Non cerca di fare altro che di trasferire nella antropologia lo stesso metodo, perché lui sperava di ottenere gli stessi risultati che aveva ottenuto la linguistica strutturale. In qualche maniera comunque c'è una specie, in tutte le scienze umane del Novecento, c'è una sorta di rivoluzione linguistica, cioè di messa. Ed è giusto, cioè, come dire, è strano che negli studi precedenti non fosse emerso con altrettanta chiarezza. È ovvio che è il linguaggio. Diciamo, il linguaggio non è solo uno strumento, no? E noi spesso impoveriamo il linguaggio declassandolo a strumento di comunicazione. Lui dice, ho sempre creduto che fosse questo, ma poi il linguaggio non è uno strumento di comunicazione prevalentemente. Il linguaggio è uno strumento di espressione, il linguaggio è uno strumento di raddoppiamento, il linguaggio è. Si può usare strumento solo in termini molto, molto figurati, molto, molto metaforici, ma è riduttivo dire che il linguaggio è uno strumento. Il linguaggio è. Paolo Virno, uno studioso di filosofia del linguaggio, dice il linguaggio è lo strumento politico della prassi pubblica. Dicendo questo vuol dire che il linguaggio è sinonimo di cultura. Non si costruisce nessuna cultura senza il linguaggio. In altri, quando facevo questo corso in un modo, diciamo, diverso, in modo che alcuni giudicano più divertente, e parlavo molto più a lungo della paleoantropologia e della nascita della tecnica, dicevo che argomentavo che mi sembra difficile pensare che un essere che schiaccia pietre non parla. Schiacciare una pietra è un'attività unica, strana, che nessun altro animale fa, e presuppone, implica una certa attività progettuale, cioè proiettiva, di immaginazione degli effetti di ciò che produrrà una certa azione manuale, che è analoga a quella che sta dietro al dispositivo linguistico. Cerco di usare il termine dispositivo perché il meccanismo mi piace meno. Il linguaggio non è qualcosa di riducibile ad un algoritmo, nonostante quello che pensano i logici e i teorici dell'intelligenza artificiale. E quindi è un dispositivo, però certo è un dispositivo. Il dispositivo linguistico è un dispositivo che fa tutt'uno con l'essere umano, non c'è essere umano senza linguaggio, ma il linguaggio ha questa caratteristica, che costruisce ciò che è complicato, è strano, perché è veramente paradossale. Il linguaggio costruisce il mondo, senza linguaggio non c'è mondo, non c'è mondo. E però contemporaneamente, per costruire il mondo, il linguaggio deve presupporre una sorta di modello esterno. Il linguaggio è come la storia di Chuang Tzu, sembra buono. È come la storia di Chuang Tzu, no? La storia di Chuang Tzu. Sapete, è molto semplice. Un giorno Chuang Tzu si svegliò e sognò, dopo aver sognato di essere stato, di essere una farfalla. Ma nel momento in cui si svegliò non era sicuro se era Chuang Tzu che avesse sognato di essere una farfalla o di essere una farfalla, che stesse sognando di essere Chuang Tzu. Tra il linguaggio e il mondo c'è esattamente questa antica storiella taoista cinese, probabilmente inesistente, probabilmente se l'ha inventata Borges, ma vabbè, Chuang Tzu è un vero filo, però per uno dei discorsi più importanti del taoismo cinese, il suo libro Chuang Tzu, uno dei due grandi classici del taoismo cinese, l'altro del Tao Te Ching, che è un libro molto più presente del Tao Te Ching, perché racconta un sacco di storie. Cioè, linguaggio mondo, ok, voi non siete, a un certo punto il linguaggio deve per forza di cose, per poter essere, per poter, come dire, funzionare, deve presupporre che ci sia il mondo. E qui sta, io credo, la seconda, diciamo, radice della forza delle posizioni universaliste, è che il mondo posto indipendente che si immagina il linguaggio, che è un mondo unico, per forza di cose, è una specie di originale, è una specie sta lì, quello è il mondo, sta lì, non l'ho fatto io il mondo, l'ha fatto Dio, l'ha fatto l'evoluzione, l'hanno fatto le forze, c'è quel caso, chiunque l'abbia fatto, non è stato l'uomo che l'ha fatto, sta lì, è qualcosa che sta lì con noi, quindi per forza deve essere unico. Se lui è unico, anche il linguaggio e le costruzioni linguistiche che lo rispecchiano e lo descrivono e mi dicono come è fatto, dovranno essere uniche. Quindi ci sarà una verità. È impossibile vivere senza, ed è vero, questo è vero, è impossibile vivere senza, anche il relativista suppone suppone che, come dire, la verità ci sia. Nessuno può vivere senza supporre che ci sia una verità. L'assolutista ci calunnia quando dice che noi relativisti non consideriamo o non vogliamo la verità. Noi relativisti diciamo solo che la verità non è condizionata e che quindi è possibile che ci siano verità diverse che si confrontano. Ma noi relativisti scegliamo la nostra verità, Non abbiamo alcuna intenzione di farci dettare la verità dagli altri e combattiamo per quello che noi pensiamo di essere la libertà, solo che sappiamo che è, va, che è vano, che è inutile, che è impossibile fondarla su solide basi oggettive. La verità non ha fondamenti. E vi racconterò poi in una delle prossime lezioni l'aiuto che ci ha dato a noi relativisti un non relativista, assolutamente un assolutista, uno dei più grandi logici e matematici del XX secolo, chiamato Kurt Gödel, il quale dimostrò due storici teoremi nei primi anni 30 di logica, che dal mio punto di vista sono una tra le armi migliori che ha in mano il relativista per opporsi, ma siccome è complicato spiegarvi i teoremi di Gödel in maniera seria, quindi in modo che possiate capire qualche cosa e non che scrivono, diciamo, cose di cavallo, ovviamente, le troverò tante volte. Allora, torniamo alla questione del linguaggio. Però prima fatemi rispondere a un sms perché è una persona che forse deve fare una cosa che non può aspettare. Tutto. Allora, diciamo, dietro alla quindi dietro il meccanismo fondamentale che sta dietro alla ricerca di una dietro a questa quest, dietro a questo pellegrinaggio alla ricerca della verità universale, sta nei meccanismi linguistici, sta nel punto. Ora, qual è la caratteristica fondamentale del linguaggio? Io quella che tecnicamente ve l'ho già detto, ve la dico sempre, anche a volere intendere il linguaggio come un sistema di comunicazione, il linguaggio è un sistema di comunicazione che tecnicamente prevede la articolazione doppia, cioè in cui gli elementi fondamentali, i mattoni con i quali si costruiscono i messaggi, cioè gli oggetti linguistici, cioè i suoni, i singoli suoni, non hanno di per sé un significato. Questa è l'unica vera differenza che c'è tra i suoni come li usiamo noi e i suoni come li usano gli altri mammiferi. Tutti gli organismi hanno un sistema di comunicazione basato sui suoni, molti, molti di loro, tutte le scimmie, tutti i primati comunicano con i suoni. Ma sino a che tu associ al singolo suono una certa azione, un certo contenuto, una certa azione, la descrizione di una situazione, c'è pericolo, ci sono le banane, togliti lì che quella è mia moglie e non te la puoi trovare, vaffanculo, dimmi che ore sono, la macchina, specialmente quelli anziani, quelli col pelo grigio, che sono i capi tribù, sono terribili, terribilmente possessivi, i maschi, essendo degli esperimenti riproduttivi, i maschi, diciamo, sono questo, sono nelle specie di mammiferi, hanno una terribile paura, tutti noi maschi abbiamo una tremenda paura di perdere questa cosa. Allora, anche in altre giornate, Leo non fa caccia, non caccia nulla, fanno tutte le donne, tutte le femmine, poi lui arriva lì e magna, cioè, oh, una stronza, per voi. E così probabilmente deriva da questa cosa, che sappiamo di essere stati creati soltanto per, insomma, in realtà, soltanto per quello, ragazzi, perché la vera continuità della specie sono le femmine, non sono i maschi, in nessuna delle specie. In alcune ciò è più esplicito, tipo mantide e piove. Api, formiche. Gli insetti sono più sinceri di noi da un certo punto di vista. Cioè, Fabio, sei mancato, però i poveri fuchi, le povere api maschie, sulle rette stanno lì, vanno in 150 dietro a una, uno solo ce la fa, quello ce la fa, tutti gli altri morti, arrivano lì, queste stronze di api operaghe, se siete giù vuol dire che uno ha scopato, ce ne frega niente a noi, tutti morti. E qui c'è uno sterminio, e così è, api e formiche pensavano così. La mantide si mangia il maschio direttamente la piccola femmina, dopo che ha fatto l'amore, insomma, così. Fortuna che noi siamo mammiferi, quindi almeno abbiamo che. Però insomma, poi nel caso degli esseri umani però i maschi ce la sono rifatta alla grande, perché dalla agricoltura in poi guidano gloriosamente, raggiungono i più alti vertici del pensiero, dell'arte, di tutto. Hanno monopolizzato le espressioni cosiddette più alte del linguaggio. E le donne stanno a fare altre cose. No. Questo ci potrebbe poi stare. Allora, quello che ho detto adesso, cioè la questione della doppia articolazione è giusta, è sacrosanta, però io a volte nelle mie lezioni non insisto abbastanza su una cosa. E cioè, va bene, questo tecnicamente il nostro linguaggio, il nostro sistema comunicativo o espressivo funziona così, e questo spiega perché è così ricco, perché mettendo insieme tutte le, no, senza dare un significato ai singoli suoni, ma dando significati solo alle sequenze di suoni, allargo a dismisura, no, la capacità di creare significati, no? Cioè questo che caratterizza il linguaggio. Però questo è forse ancora un po' troppo tecnico, un po' troppo banale. Che cosa si potrebbe dire di un po' più denso, di un po' più, di concettualmente un po' più significativo sul linguaggio? Qui devo dire la rivoluzione sossuliana con linguistica non è stata, diciamo, di aiuto, e quindi tantomeno la semiotica che ne è, diciamo, seguita, perché Sossul dice un segno, il programma dice linguaggio, dice un segno, qualunque sistema di segni, e anche gli animali, anche i segni comunicativi animali sono sistemi segnici, non è che dice, un segno è una unità di significante e significato, c'è un suono che è significante, che rimanda a qualche altra cosa, una situazione, un'azione, uno stato di cose, uno stato d'animo, quel diavolo che sia. Significante, significato, ed essi sono inscindibili come sono inscindibili le due facce del foglio. Significante, significato, non si possono staccare, non posso staccare le due facce del foglio, però concettualmente posso dire questa è una faccia, questa è un'altra, nella mia testa, posso ricostruirlo per sé. Questo è vero, ma non è forse sufficiente. Anche i sistemi di comunicazione non linguistici sono sistemi non linguistici nel senso, in questo senso, che non sono come il linguaggio umano, sono sistemi semplici. E anche lì c'è una accoppiata di caratteristiche. Che cosa è che c'è di più nel linguaggio umano che non c'è in altri sistemi, che non è riducibile al significato? È qualche cosa che nella maggior parte delle lingue indo-europee ha un nome ambiguo, perché si chiama senso. Il senso. Il senso non è il significato, Non è neanche la referenza. il significato da un certo punto di vista si può anche ridurre alla referenzialità. Io posso dire che il significato della parola libro è questo oggetto, questo come quello, come tutti i libri, insomma. Questo è quello che i tedeschi chiamano Bedeutung, Bedeuten, riferirsi a, o an Bedeuten, il riferimento, il significato della parola tavolo è un oggetto materiale chiamato tavolo, in realtà è il concetto di tavolo, il concetto di libro, ma insomma c'è un referente, c'è un riferimento. In alcuni casi il significato vuol dire questo, in altri casi è un po' più complicato, ma vi torna, se dico, ma il senso della parola libro è un libro. Non ci torna tanto. Il termine senso vuol dire, implica un'altra cosa, vuol dire una cosa diversa. Il senso non vuol dire neanche, non vuol dire neanche ciò a cui noi siamo abituati dalla nostra tradizione cristiana e neoplatonica e giudaica. Non vuol dire neanche la direzione della storia. Noi spesso diciamo il senso della vita. Il senso della vita per un cristiano è ciò che accade dopo la vita. Il destino dell'anima, della parte immortale di essere umano che il cristiano presuppone esista, e quasi tutte le religioni presuppongono esista, dopo che il corpo del corpo, quello è il senso della vita. Il senso della storia, il senso della storia anche di un evento storico è ciò che rimane quando l'evento si è consumato. Il senso della seconda guerra mondiale è Hitler che morde la capsula di cianuro nel bunker e del resto è bombardata e le truppe russe che entrano a Berlino e quelle americane quasi contemporaneamente. Questo è il senso della seconda guerra mondiale. Ma una concezione di questo tipo del senso ci legherebbe un po' troppo a una concezione della storia, a una filosofia della storia, cioè come se le cose avessero un senso. Noi sappiamo che a lungo si è pensato che tutto il mondo avesse un senso, che il creato, basta dato lo uso del termine creato di natura, indica che il senso del creato è, il senso della natura è che è stato il prodotto dell'azione di Dio, di un essere superiore chiamato Dio. I più audaci e anche i più stronzi, se mi permettete, hanno aggiunto che per dare veramente senso a questa sua grande opera, Dio aveva creato un animale speciale che era l'uomo, a cui aveva dato il compito di dare i nomi alle cose, quindi di creare senso, e che quindi tutta la natura in qualche modo non è altro che uno strumento al servizio dell'uomo. Poi in ultima analisi tutto serve alla glorificazione di Dio, ma l'uomo è la mediazione più importante. Allora, se il senso fosse questo, chiunque non crede in questa cosa, chiunque non è, cioè sarebbe accusato di essere insensato. No. Da quando Charles Darwin, all'inizio della seconda metà dell'Ottocento, ci spiegò che la storia naturale è un processo governato dal caso, che non c'è nessun disegno intelligente, che ci sono solo meccanismi ciechi all'opera, ma che questi meccanismi, cumulandosi su un breve tempo abbastanza lungo, producono delle cose, producono degli effetti visibili come le specie animali, che non sono altro che il risultato di una pressione selettiva su di una materia prima biologica di fondo, parlo di tutti gli animali, non solo della nostra, quindi anche il DNA non è altro che i singoli DNA, non sono che l'effetto di questo processo. Va bene, vorremmo dire che un darwiniano non dà senso al mondo? Non dà senso alla natura? No, questo è il suo senso. Lui ci dice il senso della natura è questo, è quello di essere un processo fatto con queste caratteristiche. Il solo fatto di descrivere qualche cosa, di dargli una caratterizzazione linguistica, di costruire degli enunciati, delle frasi attorno a un certo evento o una certa situazione, vuol dire dare del senso, ok? Io credo che anche questa, anche, allora diciamo, riconosciamo quindi che per quanto ancora poco chiara, ancora un po' misteriosa, ci sono due differenti processi. Il senso, il processo che porta al senso, e la significazione, il processo che collega i significanti con i significati. Essi sono collegati ma non sono identici. Essi sono responsabili, io credo, anch'essi di questa continua presenza nelle culture umane della aspirazione all'incondizionato e all'universale. È ironico, direbbero gli inglesi, it's ironic. Io ho sempre un grosso problema a tradurre l'ironic in inglese, perché l'ironic in inglese ha un significato intermedio tra l'italiano ironico e l'italiano paradossale. Se noi diciamo è ironico, ormai parliamo tutti un mezzo inglese, quindi secondo me molti di noi, perlomeno quelli che sanno un po' diciamo l'inglese, dicono è ironico e lo pensano in senso inglese. Noi diremo più volte è paradossale, io a volte preferisco, anche quando lo tradurre, è un casino per noi tradurre, è ironico, insomma. Perché è veramente intermedio, c'è un pezzo, non c'è una parola italiana che aderisca perfettamente all'ironico inglese, eh? Non lo so. Allora, è ironico o paradossale o entrambe le cose che questo processo di creazione del senso o questa operazione di dare senso alle cose, che è tipicamente linguistica e quindi è subordinata al tipo di linguaggio che io uso, proprio perché io suppongo al fondo che il linguaggio, invece di essere tante cose differenti, sia un dispositivo unico, siccome il linguaggio è unico, siccome la predisposizione ha la linguaggio unica, allora anche il senso deve essere unico, ecco perché siamo così portati naturalmente, non c'è dubbio, a pensare che ci sia una verità universale, che ci sia un senso universale. Ora però, una persona ci ha aiutato, secondo me, più di altri, o perlomeno ha aiutato me qualche anno fa, io ve lo dico a voi, perché a mettere un po' d'ordine in questa questione del senso e del significato, che non mi era chiara neanche a me prima di aver letto. E questa persona, e questo mi dà ulteriori argomenti a me, perché sono bacato, in favore del, diciamo, relativismo. E me le dà una persona che invece, obtorto collo me li dà, perché lui invece è un universalista convinto, ed è il signor Lévi-Strauss di cui vi ho parlato prima. Lévi-Strauss elaborò nel 1950, quindi ormai 60 anni fa, è appena più giovane di me questa nozione, un po' più giovane di me, elaborò un concetto che va sotto il nome di significante fluttuante, o floating signifier, o significa flottante. La cosa buffa è che Lévi-Strauss introdusse questo concetto in un'opera un po' particolare, perché se voi guardate questo libro non c'è scritto Lévi-Strauss sopra, c'è scritto Marcel Mauss. Però il concetto sta qua dentro. Perché Marcel Mauss era uno dei padri dell'antropologia e della sociologia moderna. Era pure parente di Durkheim, era nipote di Durkheim, che era uno dei fondatori popolari di lui della sociologia. E nel 1950 Mauss era morto, credo nel 1936, non mi ricordo dove, ed era un personaggio strano, perché era un antropologo che non aveva mai viaggiato per il mondo in conoscenza sua, ma ha scritto tra le cose più dense, più belle dell'antropologia, prendendo, la, diciamo, lavorando sui resoconti degli altri. E nel 1950, dopo la sua morte, in Francia vengono riuniti i più importanti per i suoi scritti, il più importante è uno dei più importanti è il Saggio sul Dono, che perché poi è stato ripreso da Battaglia, insomma, c'ha una storia. E anche già nel 1950 chiesero a Lévi-Strauss, che era all'epoca ancora giovane, insomma, era già affermato, come aveva già fatto i suoi studi sul campo negli anni 30, a metà degli anni 30 in Brasile, poi era tornato in Europa, ha fatto le cose, gli chiese una donazione. E questa nozione trasmutante sta contenuta nella prenotazione agli scritti di Monson, nella prenotazione di Lévi-Strauss agli scritti di Monson. Allora Monson chiede così, Marcel Mauss, ma non dovete mai dire Mauss perché era in anno francese, quindi i francesi fanno così, non cosa faccio. Mauss, Marcel Mauss. Mos, come Marcel Mos. Infatti il generale della magia, poi questo è il titolo che in italiano è un'altra roba. Comunque ci sono tutti, questo è un libro grosso, non sono tutti gli scritti di Mos, sono altri, un altro libro. Comunque gli scritti di Mos li trovate in francese, però anche su internet, però sono in francese, in italiano. E la cosa strana è che Lévi-Strauss aveva pubblicato il suo, quello che lui pensava fosse il suo libro teoricamente più importante, cioè Le culture elementari della parentela, due anni prima, cioè nel 48. Da lì a poco avrebbe pubblicato il libro che l'avrebbe reso famoso, che è un libro di reconciliati, che è Tristi Tropici, e poi avrebbe raccolto nei primi anni 60, nelle due raccolte di Antropologia strutturale 1 e 2, i suoi scritti teorico sull'antropologia strutturale. E poi era descritto nell'ultima parte della sua vita, la grande serie di mitologie, cioè il corto da bere alle ceneri, eccetera, che rappresenta il tentativo di fare una teoria generale del mito, sempre di più. E la cosa buffa è che in nessuna di queste opere, in nessuno di questi altri libri, Lévi-Strauss utilizza più questo concetto del significato strutturale. Lévi-Strauss lo scrive e si dimentica, perché indica, lo tiene lì, l'ha scritto, c'è il suo nome sotto, cazzo, non si può equivocare, non lo usa. Questa cosa ci ha messo un po' prima di colpirmi. Bravo, questa è una delle ragioni, questo è il suo pezzo, perché lui dice che è una persona intelligente. No, ma è perché ha capito che questa cosa, che pure è una delle cose più... È stata ripresa da alcuni scrittori, pensatori, filosofi, io sono solo l'ultimo e il più modesto di questi, ma insomma prima di me, ci sono tante persone più grandi di me, per esempio Gilles Deleuze o Giorgio Agamben in Italia, e in effetti è tramite Agamben che io ho conosciuto questo concetto, poi me lo sono andato a studiare. Allora, io vorrei leggere, perché secondo me il testo, alcuni dicono che è difficile, ma le pagine che levi sono poche, sono brevi, quindi vorrei leggerlo e commentarlo con voi, per parlare di voi militanti che non avete capito nulla, o che, insomma... E poi ne parliamo, però prima vorrei leggere. Non ho chiari per lei. Soffro di una lieve malattia chiamata le chiari. Allora voi dite, ma non potreste uscire di casa, prima di uscire di casa mettergli un segno? Era quello che ho pensato stamattina, ma stamattina ero un po' di fretta. Allora, Lévi-Strauss introduce queste sue brevi osservazioni discutendo uno dei concetti dell'antropologia, una delle nozioni dell'antropologia a cui Moss dedicò più tempo, più spazio nelle sue opere e a cui diede uno dei contributi più importanti, ed è la nozione di mana. Mana è una parola di una lingua non chiedete di quale polinesiana che ha una pluralità di significati e che a lungo sono stati diciamo il tramite principale per la quale ci arriva ovviamente sono le opere di Malinowski, che è l'antropologo che è stato più a lungo insomma, che ha scritto l'opera di riferimento fondamentale su strutture polinesiane, che è Adonai, e che è l'opera su cui ha lavorato Moss, su cui lavorò Moss per scrivere queste cose. Però diciamo il personaggio che più di altri riuscì a spiegare, pur sempre esercitato senza aver vissuto con i polinesiani, questa nozione di mana, perché è una, come dire, nozione misteriosa. Per certi versi questa nozione di mana coincide con quella occidentale di sacro. Quindi il mana sono degli oggetti, è qualcosa di oggettuale, sono degli oggetti che possiedono delle particolari proprietà e comunque sono collegate, attenzione, sacro non vuol dire Dio, il sacro non vuol dire Dio, vuol dire sono collegati con una certa dimensione dell'esistenza separata. Gli oggetti sacri sono tutti separati dagli oggetti cosiddetti normali, però fondante. Se non ci fossero quegli oggetti, o quei processi, o quei luoghi, o quelle cose, non ci potrebbero essere. Scusa, il concetto di sacro è un concetto che è praticamente presente in varie forme, in qualsiasi cultura. Tutte le culture hanno un qualche cosa che è riconducibile alla cosa di sacro. Non ditemi che sto utilizzando un punto di vista assolutista o universalista, perché dipende da come sono, dalle culture precise nella quale è una traduzione, è un termine. Noi usiamo sacro, i polinesiani usano mana, altri usano altre cose, e le traduzioni sono sempre approssimative, cioè non è che il sacer latino sia esattamente sovrapponibile al mana polinesiano, però una parte comune c'è, insomma, no? Allora, sia nel saggio sul dono che nel saggio sulla magia, però per esempio mana è anche una condizione. Ci sono persone che non sono sempre mana, ma in qualche momento sono mana. Quando sono sotto l'influenza di quei certi oggetti, di quelle certe cose, eccetera, eccetera. Mana sono a volte dei processi naturali. Un fulmine, una tempesta, un uragano. Quindi è una nozione sfuggente che all'antropologo tradizionale, in particolare a Malinowski, che era vissuto lì, era sempre sfuggita. Marcel Mauss cerca Allora adesso sarebbe, c'è qualche cosa che forse non capirete bene, ma vi leggo la frase prima, il periodo prima, perché è così. Allora, da un lato lui dice, insomma, Lévi-Strauss dice che non bisogna fermarsi con Marcel Mauss che spiega le singole culture diciamo locali, quelle per esempio polinesiane. Niente vieta di tentare di sviluppare il pensiero di Mauss nell'altra direzione, cioè quella un po' più generale, questo è Lévi-Strauss universalista, quella cioè che dovrà essere definita dall'essai sur le dons, dal saggio sul dono, dopo aver superato l'equivoco, a noi se non va bene questo è l'equivoco. Se il mana infatti appare alla fine delle schizzo generale della storia della magia, lo how, che è un'altra nozione collegata, appare felicemente solo all'inizio del dono e in tutto il saggio è trattato come un punto di partenza, non come un punto di arrivo. A che cosa si arriverebbe se proiettassimo retrospettivamente sulla nozione di mana la concezione che Mauss ci invita a farci dello scambio? La tesi fondamentale di Mauss sullo scambio è che anche le economie sviluppate umane derivano più che da una esigenza materiale di procurarsi dei beni, da una sorta di esigenza simbolica, cioè di avere uno scambio. Ed è per questo che lui vede nelle pratiche del dono rituale praticato da moltissime culture, non solo polinesiane, ma anche eschimesi, amerindie, nella fase precedente, vede in quelle pratiche, che apparentemente sono quanto di più diverse, di più lontano dall'economia ci sia, un antenato dell'economia, cioè della cioè economica. E vede addirittura nel potlatch, e cioè in queste grandi cerimonie di distruzione generalizzata di ricchezze che molte tribù facevano sempre in quelle culture, specialmente sulle due rive, insomma, diciamo eschimesi e indiani algonchini, che sono quelli della costa alta del Pacifico, quindi Canada, la costa pacifica del Canada e degli USA, e anche siberiani che stavano dopo lo stretto di Bering, insomma, poco più. Molti di questi diciamo, avevano questa pratica detta del potlatch, e in cui si accumulavano ricchezze anche di tipo artigianale, robe costruite, eccetera. Poi si faceva una grande festa annuale a cui tutte le tribù portavano il loro contributo, e il loro contributo che cos'era? Mettere insieme tutte queste cose e bruciarle o distruggerle, no? Cioè, diceva, che cazzo, ci hai lavorato tutto l'anno per lì e distruggi. Come dire, era una specie, diciamo, di competizione fra le tribù, fra i clan, perlomeno, fra i clan, fra i vari clan di una unica tribù, quando era molto grande, è quella di dimostrare di avere più cose da poter distruggere. E poi dopo, diciamo, si tornava, diciamo, poveri, si tornava poveri e si ricominciava ad accumulare. Ma è una cosa senza senso, sembrava, no? Allora, Marcel Mauss gli dà un senso a questa cosa, perché dice questo è uno dei meccanismi fondamentali di socialità e di scambio. È lo scambio. Bataille negli anni 30, quindi poco dopo, tornò su questa cosa e costruì, lui ne fece uno dei centri della sua percezione dell'economia, la cosiddetta economia della dépense, cioè dello spreco, del surplus, dell'eccesso. E dopo qualche tempo anche Baudrillard, nella sua opera prima e molto importante, che è L'échange symbolique à la mort, lo scambio simbolico alla morte, anche lui utilizzò più o meno questa idea. Cioè, c'è sempre in tutti, in maniera diversissima, ma in tutti questi pensatori, l'idea che, come dire, la costruzione di un legame sociale o la costruzione di un senso sociale sia qualcosa che abbia necessariamente a che fare con un eccesso, con una sovrabbondanza, con qualche cosa che cresce, con qualcosa che c'è di più o che io decido che è di più, che io segno, indico, connoto come superfluo, come eccedente, no? Questo è per spiegare il contesto, se no non si capisce quello che dice Lévi-Strauss. E a che cosa si arriverebbe, dice Lévi-Strauss, se proiettassimo retrospettivamente sulla nozione di mana, di sacro, la concezione che Mauss invita a parte dello scambio? Bisognerebbe ammettere che, come lo how, un'altra di queste nozioni strane, il mana non è che la riflessione soggettiva della esigenza di una totalità non percepita. Lo scambio non è edificio complesso costruito sulla base delle obbligazioni di dare, di ricevere e di ricambiare con l'aiuto di un cemento affettivo e mistico. Esso, lo scambio, è una sintesi immediatamente data al pensiero simbolico e attraverso di esso, nel quale, nello scambio, come in ogni altra forma di comunicazione, supera la contraddizione che gli è propria, di percepire le cose come gli elementi del dialogo simultaneamente sotto il rapporto tra me e gli altri e destinate per natura a passare dall'uno all'altro. Che esse siano dell'uno o dell'altro rappresenta una situazione derivata rispetto al carattere relazionale iniziale. Ma non è lo stesso per la magia. Il giudizio magico, implicato nell'atto di produrre il fumo per suscitare le nuvole e la pioggia, non si basa su una distinzione primitiva tra fumo e nuvola, con il ricorso al mana per congiungere l'uno all'altro, ma sul fatto che un piano più profondo del pensiero identifica fumo e nuvola, che l'uno è la stessa cosa dell'altra, almeno sotto un certo rapporto, e questa identificazione giustifica la susseguente associazione, non il contrario. Tutte le operazioni magiche riposano sulla restaurazione di una unità, non già perduta, perché nulla è perduto, perché niente è mai perduto, ma inconscia o almeno interamente cosciente, o meno interamente cosciente di queste stesse operazioni. La nozione di mana non appartiene all'ordine del reale, ma a quello del pensiero, che anche quando pensa a se stesso non pensa se non un oggetto. Reifica, oggettifica il pensiero, sempre. Con questa frase, non ci siamo ancora al punto centrale, questo è solo la... Però voglio commentare anche questa. Con questa frase Levi-Strauss ci invita a fare una cosa che tutti gli antropologi ci hanno sempre invitato a fare, cioè a non leggere le altre culture con gli occhiali troppo spessi della nostra cultura. Siamo noi che pensiamo che il fumo del fuoco e la nuvola siano due cose separate, perché noi siamo uomini analitici, occidentali, eredi di Platone, di San Paolo e dell'alfabeto greco, e quindi pensiamo così. Ma dice lui, guardate che molto probabilmente invece il pensiero magico non è fatto come il nostro, non è analitico, non prevede l'esistenza delle cose fuori di noi come un dato e così diviso, prevede delle totalità, delle unità, e se quindi la pratica magica primitiva può pensare che facendo un fumo si otterrà una nuvola in cielo, non è perché dice che c'è una relazione tra il fumo e la nuvola e c'è questa strana cosa chiamata mana che le collega, no, pensa al fondo, anche in modo non totalmente cosciente, che il fumo e la nuvola siano la stessa cosa e che si presenta sotto due forme diverse, lassù nel cielo e qua, sulla terra, e che mana non sia nient'altro che una allusione a questa totalità. Ecco perché nella frase precedente ha detto, il mana non è che la riflessione soggettiva della esigenza di una totalità non percepita. È chiaro? O no? Devo rispiegare? Vedo alcuni video da cui mi pare che devo rispiegare, tu dici no, ma è per qualcun altro, sì, quindi noi rispieghiamo lo stesso, ci mettiamo il polso in mezzo per non perdere la pagina. Allora, la proposta concettuale di Levi-Strauss è: non pensiamo alla magia come a qualche cosa che collega elementi distinti, elementi che noi con la nostra tradizione culturale pensiamo distinti. Esempio, noi siamo convintissimi che un fuoco acceso sulla terra, fatto di steppaglie, bacche e pure qualche negro, ci mettiamo dentro che brucia meglio, o qualche ebreo, la stessa cosa, insomma, comunque adesso c'è molta gente che pensa che il presidente degli Stati Uniti sarebbe meglio di un uomo, specialmente dopo l'ultima legge, chiaro. Sono tanti amari, pare, per Obama in questo periodo. Ci sono 13 ricorse, non che io consigli di pensare che sia un grande funzionario, però di nuovo. Se ricordo, non hanno ammazzato sinora Kennedy, lo ammazzarono poco meno, era 50 volte più mafioso di Obama, e ne aveva combinate anche meno, insomma, dal punto di vista degli stronzi. Chiusa la parete. Noi siamo convinti che da un punto di vista fenomenologico, chimico, fisico, noi sappiamo che il fuoco è un fenomeno di combustione, ossigeno, idrogeno, bla bla bla, e la nuvola è evaporata, cioè noi siamo scienziati, quindi sappiamo benissimo che il fuoco e la nuvola sono due cose diverse. Il polinesiano, l'algonchino, non pensa così, non perché sia cretino, non perché non sa la chimica, perché ha una cultura diversa. Nella sua cultura, lui non sa bene come, ma il fumo prodotto da un fuoco fatto a terra e la nuvola fanno parte di una unica totalità, sono stati la stessa cosa, o da qualche punto di vista sono la stessa cosa, o in qualche particolare circostanza sono la stessa cosa, o sotto qualche aspetto sono la stessa cosa. Comunque c'è una qualche unità oggettiva, non diciamo soggettiva, che li unifica. Quindi lui dice attenzione, Marcel Mauss ci ha aiutato a non considerare la magia come il tentativo di collegare cose incollegabili. Il fumo e la nuvola non sono diversi per il pensatore primitivo, per il filosofo primitivo, per il personaggio, per l'esponente della cultura primitiva, della vita cosiddetta primitiva, diciamo, meglio le culture orali, culture non scritte, culture non della scrittura. Il mana non è altro che l'espressione oggettiva di una unità sostanziale di certi elementi del cosmo che poi ai nostri sensi appaiono sparati, perché non è un cretino l'indigeno, lo sa bene che il fumo si origina dalla terra e le nuvole stanno diciamo in cielo, ma dice, suppone che ci sia qualche cosa che le collega oggettivamente, che siano simili o addirittura uguali oggettivamente. La magia non è quindi un tentativo umano artificiale di costruire un ponte artificiale, ma è il tentativo di ricreare anche nelle condizioni apparentemente sfavorevoli questa oggettività, questa unità. È chiaro adesso? Oh, perfetto. Perché adesso arriva, adesso sfera il suo colpo, adesso arriva il significato più suave. Potrebbe dire che fuori un attimo la definizione di pensiero analitico? Cioè, pensiero analitico, che cosa si intende? Che cosa si intende? Pensiero analitico. Questa bottiglietta è un oggetto la cui forma è che ha un profilo per ha un tratto di artefatto di plastica, ha una storia produttiva, è uscito da una macchina fatta in quel modo, in quell'altro modo. Il pensiero analitico è un pensiero che segmenta. Ok, da un unità universale si passa a un particolare? No, sempre universali. Ci sono un sacco di universali. Il sistema produttivo sarà, per certi versi, universale rispetto a questa. C'è un modello di questa bottiglia. Questa è una bottiglia singola, ma ti direbbe lo junghiano, c'è un archetipo della bottiglia. Anche l'archetipo nel pensiero analitico è analizzabile. Addirittura i più folli tra gli junghiani l'hanno fatto, hanno scritto libri di 500 pagine per analizzare gli archetipi junghiani, cioè cose che non esistono e analisi che non esistono, cioè libri totalmente inutili, ma però sono così da fare. No, Gilbert Durand, le strutture antropologiche dell'immaginario, sono libri inutili che ci diano sulla faccia della terra, 500 pagine per spiegare chi sono, quadro, una cosa, come i tarocchi, sono meglio i tarocchi a questo punto, almeno sono più divertenti, misteriosa cosa. Chiaro? Il pensiero sintetico è il pensiero che coglie l'oggetto nella sua unità. È ovvio che c'è un pensiero sintetico anche, cioè Kant ti spiega che quando tu vedi questa roba ne hai una intuizione. Diciamo, l'intuizione è sintetica, la descrizione è analitica. Allora, il pensiero analitico è un pensiero che privilegia la descrizione, la scomposizione, la frammentazione, l'enumerazione delle componenti di un certo fenomeno rispetto alla visione totale, alla visione immediata e, diciamo, totale. Questo è il pensiero. Alcuni pensatori, tra i quali McLuhan e i suoi allievi, suppongono e pensano che la causa principale del pensiero analitico sia la scrittura alfabetica. L'alfabeto, perché l'alfabeto è unico caso al mondo tra i temi di scrittura un sistema di scrittura che mette in corrispondenza biunivoca tutti i suoni emessi per costruire i discorsi con dei segni grafici. Nessun altro sistema di scrittura al mondo, tranne l'alfabeto greco e i suoi derivati, l'alfabeto latino è derivato da quello greco, quello che si usa di solito, quello cirillico anche, tutte le scritture non fanno questa cosa. O sono sistemi come quelli orientali, cinesi, giapponesi, non sono alfabeti, sono ideografici o pittografici, cioè associano a dei concetti dei segni, a delle parole, diciamo, o a dei concetti. Altri sono sillabici, cioè introducono un segno grafico per una sillaba e quindi hanno bisogno di meno segni di quelli pittografici, ma di più. Altri, come quelli delle lingue semitiche, arabo o ebreo, sono consonantici, cioè per una serie di particolarità strutturali delle lingue semitiche non hanno bisogno di segnare le vocali, non ne hanno bisogno proprio, cioè nel senso che possono ricavarle dalla sequenza, non hanno bisogno di segnare le vocali, e possono ricavarle dalla sequenza delle consonanti. L'alfabeto greco deriva da un sistema di scrittura semitico a cui alcuni geniali e sconosciuti inventori greci, probabilmente dell'isola di Cipro o di Rodi fra il 9 e l'8 secolo a.C., aggiunsero dei segni per le vocali, perché parlando loro una lingua indo-europea in cui le vocali hanno un significato semantico e non soltanto puramente flessivo come ce l'hanno nelle lingue. Le lingue semitiche sono lingue che hanno questa struttura qua. Una successione di suoni consonantici indica un certo concetto. Per esempio il concetto di leggere. Supponiamo che queste questi suoni consonanti siano LBR. Dico una cazzata perché ovviamente non è così, ma insomma. Se un lettore semita legge LBR, lui sa che c'è qualcosa che parla di libro, qualcosa che parla di un libro, di uno che legge, di qualcosa che si scrive. Poi, a seconda della frase, del contesto, vede se è scritto libro, se è scritto libresco, se è scritto, cioè tutte queste robe le aggiunge lui e sono soltanto vocali. Le vocali quindi non aiutano a identificare il significato delle parole. Questo significato, il significato ad ampie tracce è dato solo dalle sequenze consonanti. Queste sono tutte lingue semitiche che sono fatte così, funzionano in questo modo. Non so perché, non so cosa farci, ma è così, non le ho inventate io. Questo spiega perché i fenici, tra i più portati sono stati, come dire, fenici. I fenici a un certo punto, che per una fase avevano utilizzato un sistema sillabico, a un certo punto ha detto, ma che cazzo, continuiamo a avere 5 segni diversi per ba, be, bi, bo, bu, be, be, sette, quelli che fossero, non so. E tanto a me mi frega solo di b, se c'è b capisco già, poi a e u ce le metto io. E quindi hanno semplificato le cose, hanno fatto un sistema di scrittura di 23, 24, 25 segni che erano solo consonantici. I greci hanno visto che era un popolo pratico, nonostante quello che noi pensiamo di loro, comunque che erano mercanti, hanno visto, cioè, beh, però bella idea. Poi sulla cortica loro non sapevano un cazzo, perché? Perché i greci avevano A, E, lunga e breve, I, O, lunga o breve, U, che cazzo, questi come faccio? Perché per una lingua indo-europea, con tutte le lingue indo-europee, le vocali hanno lo stesso significato, cioè hanno la stessa funzione delle consonanti nel determinare il significato, quindi non è possibile per un lettore dell'indo-europeo fare la stessa. Allora, per fortuna però, la lingua fenicia possedeva evidentemente alcuni suoni consonantici che la lingua greca non possedeva, quindi c'era dell'eccedenza. C'era un'eccedenza di consonanti. La genialità dei greci fu nel trasformare questi segni grafici da segni di consonanti che non avevano corrispondenza per loro, non c'era la corrispondenza, diceva facciamo le vocali. Facciamole usare. Questi sono segni che più o meno c'erano già. Beta, no? Beta, epsilon, omicron, omega. Sono tutti segni che facevano parte di un sistema di scrittura fenicio, ma indicavano o consonanti o semivocali, cioè suoni che in greco non c'erano, quindi erano libere. Qualcuno sa, forse erano solo tre o quattro, qualche altro segno è stato aggiunto, e così è nato l'alfabeto. Ragazzi, queste cose le fate negli altri corsi, non, per questo non era proprio previsto. Comunque dovreste già saperle, ma... Allora, cioè, comunque chiara l'idea. Non sto, adesso non so, fino a qualche anno fa ero anch'io un convinto sostenitore dell'ipotesi macloniana, adesso comincio ad avere i miei dubbi anch'io, passo la vita ad avere sempre i dubbi. Comunque diciamo, l'ipotesi macloniana, vi dico solo questo, sostiene che l'alfabeto ebbe una influenza culturale determinante nello sviluppo di quello che oggi noi chiamiamo il pensiero occidentale, cioè la sua analiticità, perché, detta diciamo in breve, perché l'alfabeto è il sistema di scrittura più meccanico che esista e più automatico. Quando uno scrive può anche, o quando legge può anche, virgolette, fare a meno. Lo scrittore, il lettore dell'arabo deve partecipare intensamente, o dell'ebraico, o dell'aramaico, deve partecipare intensamente alla, diciamo, lettura. Perché? Perché deve metterci le vocali, che non ci sono scritte, che non ci sono segnate. Quindi deve stare attento, certo, dal contesto, capire se quella lì vuol dire libro, vuol dire leggere, vuol dire lettore, vuol dire lettrice, vuol dire tutte le robe collegate con l'atto del leggere, con l'atto del libro. E quindi deve partecipare. Non parliamo del lettore del cinese, il quale deve addirittura ricostruire, non ci sono i nessi sintattici e grammaticali rappresentati, ci sono solo i concetti. Quindi addirittura come negli antichi geroglifici egiziani, così nelle scritture integralmente pittografiche o ideografiche, tutta la sostanza relazionale tra le parti del discorso non è rappresentata nei segnali, quindi deve essere ricostruita. Il sillabico si trova già un po' meglio, in effetti le scritture sillabiche sono le più vicine all'alfabeto, non quelle consonantiche, perché quelle consonantiche sono più vicine a quelle, dal punto di vista dell'impegno che richiedono al lettore, sono più vicine a quelle ideografiche, anche se sono fonetiche di fondo. Ripeto, questa tesi è possibile che abbia qualche forzatura, che sia un po' un altro ricoglio. La tesi di McLuhan riguarda il carattere. Sì, perché è povero, perché oggi c'è solo più le cose che la fotografia. L'ultimo libro che ho pubblicato nella mia collana, che ho sono mesi, di Kerchove, sostiene, se argomenta esattamente questa cosa. Però, ripeto, è discutibile, oggi si potrebbe discutere, però non... Adesso però ho fatto passare un sacco di tempo, quindi se non vi do la pausa adesso, quando ve la do? Lévi-Strauss alla fine della pausa. Stop.